Dopo la sconfitta con il Messico, Lippi, in vista dei mondiali in Sudafrica, è comunque soddisfatto. Bene bene, volevo proprio che i ragazzi si abituassero a perdere fin da subito. Messico a nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messico a nuvole.